Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti i nostri radioascoltatori. Ebbene, già come anticipato, oggi parleremo di ristorazione. In particolare parleremo della crisi, ma vista con un aspetto molto particolare. Vorremmo andare a verificare se questa crisi ha portato a una riduzione dei coperti, a una riduzione del business dei ristoranti, oppure se non è la crisi, quindi non è una crisi di portafoglio, ma una crisi di modello, chiamiamola così, di offerta da parte dei grandi ristoranti, quello che viene definito il GOT, i ristoranti stellati. E a proposito di questo, prima di iniziare, ricordo il numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, perché vogliamo ascoltare anche la voce di chi va al ristorante, che cosa ne pensa. Quindi in particolare noi avremo degli ospiti che sono dei ricercatori oppure prevalentemente dei ristoratori. Manca la voce del consumatore e la vorremmo ascoltare da voi che siete in ascolto. Bene, prima di dare il via però, visto che si parla di ristoranti stellati, di grande cucina, mi corre così il piacere di fare gli auguri, anche se il compleanno è stato ieri, di un grande, il giovane vecchio della cucina italiana, a Gualtiero Marchesi. Bene. Partiamo subito con così uno spaccato di questa realtà. Abbiamo con noi Giuseppe Minoia, presidente del GFK Eurisco, il quale ha fatto una ricerca proprio in proposito per la FIPE. Allora voglio chiedere al dottor Minoia questo: crisi di modello o crisi economica che influisce sulla riduzione, diciamo, dei clienti al ristorante? Buongiorno Minoia. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Crisi di modello, ma non direi, nel senso che i nostri frequentatori di ristoranti stellati e non ci dicono in questa ricerca che il desiderio di ristorazione di alta qualità è molto forte, anzi, secondo le nostre analisi di tendenza, sta aumentando. In un momento di crisi, anche di paure, di frustrazioni, il pensiero di poter avere un'esperienza in un grande ristorante che crea quella che chiamiamo la discontinuità rispetto alle paure quotidiane, è un bel desiderio, si ha tanta voglia che venga realizzato. Quindi, per quanto riguarda i ristoranti che veramente promettono esperienza e poi la realizzano, dal punto di vista del consumatore, del cliente finale, va tutto bene, certo. Poi ci sono i prezzi finali, però questi prezzi finali, se l'esperienza è stata veramente al top, sono considerati come qualcosa che comunque merita di venire pagato. Il tema diventa un po' più critico quando invece pensiamo ai ristoranti cosiddetti di affezione, che sono dei ristoranti molto più, diciamo, accessibili per i prezzi, ma proprio per questo anche molto più criticabili. Lì l'esperienza molto spesso desiderata non c'è, le critiche a volte sono forti e qualche volta feroci per l'insoddisfazione, non tanto della qualità intrinseca del cibo, del piatto, ma proprio dell'esperienza che si dà oggi ad un cliente consumatore che è molto più esigente rispetto al passato, un cliente che ne sa di più, ne vuole sapere di più, vuole dialogare con il cuoco, con i responsabili del ristorante, molto spesso si trova frustrato, insoddisfatto, trattato come un cliente comune. Non dimentichiamoci che quando entriamo in questi ristoranti di qualità vogliamo essere riconosciuti addirittura prima nelle nostre qualità, nelle nostre capacità e nei nostri desideri. Bene, io la ringrazio dottor Minoia, grazie di questa analisi. Ricordo il numero verde 800 24 00 24, abbiamo già un radioascoltatore, Aldo dalla provincia di Padova. Buongiorno Aldo. Caro dottor Paolini, buongiorno, vi seguo sempre. Io ho un ristorante in provincia di Padova, Due Carrare, dove la nostra cucina è esclusivamente a base di pesce, e devo dire che giustamente noi abbiamo una fascia di prezzo, diciamo, medio-alta, che indubbiamente c'è stato un calo. Noi siamo abbastanza fortunati perché lavoriamo con clientela affezionata. Allora, come si fa ad affezionare la clientela? Bisogna un attimino personalizzare il cliente, bisogna dargli quel calore come fosse in una famiglia. E poi dopo vorrei lanciare una piccola provocazione, un piccolo sasso nello stagno, diciamo, non so se qualcuno è d'accordo con me. E i ristoranti che prendono la stella o due stelle o tre stelle, siamo sicuri che dopo questo si tratti in beneficio per il ristorante, o è un pesante fardello da portare nel tempo e cercare, non so, di migliorarsi sempre di più, cercare la perfezione, e dopodiché in cucina noi sappiamo benissimo che la parte del leone, la parte forte la fa l'acquisto della materia prima, una materia prima che deve essere sempre straordinaria. Io personalmente faccio la spesa tutte le mattine e vado io a scegliermi. Beh, dopo non lo so se tanti... Aldo, tanti abbiamo capito così benissimo la sua domanda, e io ora devo passare la linea alla regia, ma quando riprenderemo no, allora non devo passare la linea alla regia, sembra di no. Allora sentiamo proprio, abbiamo Raffaele Alaimo in linea con noi. E ha sentito questa domanda? Raffaele, hai sentito questa domanda? Sì, saluto Aldo, buongiorno. Oltre a salutare Aldo, saluto te e tutti gli ascoltatori. Ecco, allora Raffaele, è un fardello alle 2-3 stelle? Beh, sicuramente è un impegno, però è un impegno, bisogna capire anche come uno lo vive questa cosa qui. Cioè, se una persona ha il sogno di riuscire a raggiungere un certo tipo di punteggio e quando arriva lo vive come un peso, può essere che Aldo abbia ragione. Se invece lavori per una tua ricerca personale nella ricerca della qualità e i riconoscimenti arrivano, alla fine sono una conseguenza del tuo operato e dovrebbero pesare un po' meno. Siamo partiti dal discorso delle stelle e devo dire che voglio appunto chiedere questo a Alaimo. Alaimo sono le calandre di Padova. Ebbene, Alaimo sono 3 stelle con le calandre, poi hanno aperto un locale che si chiama Calandrino e ultimamente hanno rivoluzionato dal punto di vista ambientale, diciamo, il loro locale. Allora voglio chiedere ad Alaimo questo perché? Perché sicuramente bisogna andare oltre, cioè bisogna andare oltre al locale così top, diciamo, per razionalizzare i conti, oppure no? Beh, sicuramente ci sono sia un punto di vista passionale che un progetto economico, un progetto nostro finanziario. Il Calandrino nasce come per dare un'opportunità a persone che non possono spendere le cifre che può costare le calandre e avere una possibilità di ingresso su un certo tipo di cucina già in ogni caso impegnata e originale. E questa è la cosa principale per cui abbiamo preso questo spazio e l'abbiamo portato ad essere il nostro posto, diciamo, più casual. Il rinnovo delle calandre fa parte invece di un prosieguo della nostra filosofia. Gli ingredienti, il modo, la ricerca degli ingredienti della cucina di Massimiliano sono stati trasferiti nella ricerca dei concetti per la preparazione della tavola, del ristorante, delle sensazioni per il cliente. Quindi giocate in contropiede, mi sembra di capire, nel senso che mettete le mani avanti, cioè delle volte che ci fosse un calo consistente siete pronti con altri modelli per partire sul mercato? Beh, io credo, sai, una cosa in cui gradisco puntualizzare, secondo me è questa: quando le persone mi parlano che questa è crisi, ma passa secondo te, eccetera, io non credo che debba essere vista così. È ovviamente un punto di crisi, ma inteso come fine di un'epoca e l'apertura di un'altra. Quando succedono alla fine di un'epoca, alcuni modelli vengono messi in discussione, messo in discussione tutto, e ci sono alcune cose che non funzioneranno più, e quindi noi ci siamo fatti delle riflessioni nostre e abbiamo deciso di portare avanti la nostra filosofia guardando avanti. Cioè, la gente non si veste più come prima, non arreda le case più come prima, eccetera, quindi bisogna andare incontro anche a un ambiente perfetto. Perfetto nella risposta, caro Raffaele, e vorrei ricordare che domani, anzi ricordalo tu, cosa ci sarà domani? Sì, domani a Brusaporto, a casa dei Fratelli Cerea da Vittorio, avremo la 7ª edizione del Gusto per la Ricerca, dove in 6 chef ci si trova e organizziamo questo pranzo straordinario, dove Davide ci segue dalla prima edizione, in cui il 100% del ricavato daremo in beneficenza. Quindi se per informazioni guardate il sito della Onlus, che è www.ilgustoperlaricerca.it, e vedrete le prime 6 edizioni dove sono andati a finire tutti i soldini che abbiamo raccolto. Grazie Raffaele. Bene, abbiamo parlato di chi ha diversificato ed abbiamo sentito Alaimo, appunto, che 3 Stelle ha creato, stanno creando altri locali. Bene, c'è un altro personaggio che è Moreno Cedroni. Buongiorno Moreno. Buongiorno, buongiorno Daniele. Che già da tempo, diciamo per così dire, ha diversificato aprendo il Calandrino e poi aprendo anche qualche giorno fa un locale a Milano all'interno di un albergo. A lui voglio chiedere, Moreno, questo perché vedi che certe tipologie di ristorante, diciamo stellati, possono avere qualche problema in futuro? Ma guarda, il Clandestino è nato nel 2000, quindi non pensavo assolutamente a questo, e tutto il mio progetto è nato intorno al cibo, quindi nel Clandestino il progetto del crudo, la Madonnina, un cibo gastronomico, ad Anicò il cibo da strada e nella scatola il cibo che mangi fra 2 anni, quindi ho lavorato intorno al cibo. Naturalmente poi col passare degli anni è venuto fuori questo problema, che sicuramente la ristorazione di un certo livello e aveva dei problemi, ma soprattutto legati, non tanto, mi riferisco all'ascoltatore di prima che diceva il costo del pesce, qui c'è un costo, diciamo, del lavoro molto alto, quindi noi abbiamo molte mani per mantenere questa qualità e questo ci è tornato un po' contro. Quindi ecco, un modo più informale, il Clandestino rappresenta un modo più informale di mangiare, cioè buoni contenuti, tipologia più verso il crudo, quindi più su un cibo facilmente digeribile e un servizio più smart, ecco. E direi che questo è senz'altro, non il ristorante del futuro, però è un tipo di ristorante che sia le nuove generazioni sia generazioni più grandi apprezzeranno sempre, ecco. Bene, ti ringrazio, grazie Moreno Cedroni, grazie, esaustivo quello che ci ha detto. Ora sentiamo Andrea dalla provincia di Milano. Buongiorno Andrea. Buongiorno Davide. Innanzitutto prima si parlava della qualità della materia prima, cosa che nell'alta ristorazione è fondamentale, quando Andrea, purtroppo si sente malissimo, cercheremo di ripescarti perché sentiamo molto male, sentiamo il rimbombo della tua telefonata. Fra poco quindi sentiamo Francesco da Bari. Buongiorno Francesco. Sì, buongiorno dottor Paolini. Sentendo molto attentamente la vostra conversazione mi sono accorto di alcune defezioni che esistono tra le affermazioni fatte da tutti i ristoratori. Le spiego meglio. Il problema fondamentale è capire: dobbiamo adattare le necessità del ristoratore a quelle che sono i desideri del cliente, oppure adattare le necessità del cliente a quelle che sono il ristoratore? Perché il problema fondamentale, io le parlo da medico, il problema fondamentale che oggi viviamo è che c'è un'attenzione molto maggiore nei confronti della salute da parte del lavoratore, del cliente in generale che si reca al ristorante, il quale vuole trovare al ristorante la soddisfazione non solo per il palato, ma soprattutto mantenere quelle che sono le necessità magari imposte dai medici in fatto di dieta dimagrante. Quindi cambiare il modello dei ristoratori, sa qual è quello di adattare verso un approccio più importante alla salute. Bene, grazie, è un argomento molto interessante, magari potremmo anche dedicare una trasmissione prossimamente a questo, appunto al discorso benessere ristorazione. Luciano Sbraga è responsabile ufficio studi FIPE, che ha fatto un grosso lavoro di ricerca su, diciamo, la fotografia della ristorazione ad oggi, e da questa fotografia emergono dei dati importanti, una riduzione di calo non indifferente di clientela, dei cambiamenti strutturali in vista. E allora voglio sapere da lui esattamente un po', che ci faccia una fotografia molto veloce. Buongiorno Sbraga. Buongiorno dottor Paolini, buongiorno. Allora lei ha detto bene, siamo dinanzi senz'altro ad una crisi di domanda, ma non nel senso in cui si può intendere relativamente ad altri comparti della ristorazione, cioè parliamo della perdita del potere d'acquisto. I clienti di questi ristoranti, di ristoranti di eccellenza, non hanno problemi di questo tipo, semmai ci sono problemi di cambiamento dei modelli di consumo. Ad esempio il menù degustazione, che pure ha un ruolo notevole nella ristorazione di eccellenza, pensiamo che almeno il 40% dei menù consumati sono degustazione e non alla carta, il 60 alla carta, è entrato un po' in crisi perché i clienti non sono più ben disposti a consumare dalle 7 alle 8 portate, a stare magari ore seduti a tavola. Lo stesso consumo di vino è in calo per ragioni di stili alimentari, ma anche per motivi legati a cambiamenti di normative, per esempio sul consumo di alcol. Ecco, e quindi c'è una componente legata alla domanda. Ma diciamo che questa componente ha messo in qualche modo il re, ha detto che il re è nudo, no? Nel senso che ha fatto emergere alcuni problemi di tipo strutturale che hanno i ristoranti di eccellenza. Sono prevalentemente ristoranti con un numero limitato di coperti e hanno per lo invece al contrario molti addetti, diciamo che arrivano quasi a 20 addetti in media, e quindi c'è un squilibrio tra costi, quindi tutti i costi di gestione, e ricavi in questa fase. In questa fase il problema è venuto ancora più in emersione. Ecco, questa è la prima cosa che direi. Sono ristoranti che lavorano mediamente 200 giorni l'anno, prevalentemente la sera e prevalentemente nel fine settimana. Quindi questo fa emergere ancora di più la cosa di cui parlavo prima a proposito di squilibrio tra i costi di gestione che sono notevoli per garantire l'eccellenza e ricavi che non sono in qualche modo adeguati ai costi. Bene, Luciano, rimanga con noi, ora sentiamo un radioascoltatore, Andrea da Milano. Buongiorno Andrea. Buongiorno Davide, eccoci, abbiamo recuperato, sì, la linea. Prego. Brevemente, io parlavo sulla qualità, che nell'alta ristorazione è sicuramente molto importante, ma cosa ancora più fondamentale forse è farla percepire al consumatore, ovvero al cliente. Quando si va, a me è capitato di andare da Emenaglia e alla domanda cos'è questo piatto mi si racconta della razza livornese delle galline, lì sì che magari si apprezza in modo ancora più eccelso la qualità del piatto. In altri ristoranti con altrettanti meriti ed altrettante stelle magari rimane più asettico il rapporto o comunque la percezione della qualità. Bene. Dopodiché concludo, prima si diceva sulla quantità del vino altamente ridotta, sicuramente il fatto che uno abbia paura a bere un bicchiere e mezzo di vino perché rischia la patente. Bene, è davvero grave. Se si è in quattro non si può bere neanche una bottiglia di vino, insomma andrebbe valutata o cambiata questa. Grazie Andrea. Grazie Andrea, sì, purtroppo la legge sull'etilometro c'è, addirittura c'è chi vuole addirittura ridurla, bisogna vedere quali risultati ha dato, veramente bisognerebbe essere molto leali su questo, che magari fosse a conoscenza, la pubblica opinione fosse informata se ha portato dei benefici o meno. Beh, abbiamo con noi, visto che abbiamo sentito Sbraga, addirittura da Hong Kong, Claudio Sadler. Claudio Sadler ha un ristorante a Milano che si chiama Sadler, che è un 2 stelle, ma ha anche aperto una trattoria a fianco e quindi diciamo per tempo forse ha diversificato. Voglio chiedere a Claudio se questo ha dato dei buoni risultati alla sua gestione. Voglio ricordare che in Francia quasi tutti gli stellati hanno aperto dei bistrò, ad esempio molti anche di più, e l'ultima grande apertura a Parigi è stato di uno chef che era portato veramente alle stelle, Le Piège, il quale se n'è andato da Le Crayon, dall'hotel, e addirittura ha aperto un bistrò. Quindi vuol dire che c'è qualcosa nell'aria anche all'estero che sicuramente non funziona. Claudio, a te. Ciao Davide, come va? Tutto bene? Bene? Saluto a tutti gli ascoltatori e grazie di avermi chiamato. Purtroppo io sono in questo momento a Hong Kong, quindi il mio intervento non potrà essere molto lungo. Comunque, ho sentito la tua domanda e quindi ti dico che il fatto di aver aperto Chic & Quick a fianco a Sadler e 2 stelle è stato per me una grande scoperta da un punto di vista economico, perché comunque c'è una fortissima sinergia, e il fatto di considerare questa crisi come una crisi di modello non direi, perché comunque quando si ferma anche Chic & Quick, eccetto qualche rara situazione in cui Sadler è meno, cioè è vuoto e Chic & Quick è pieno, però questa cosa è incomprensibile, non riesco a capirla, cioè ho fatto tutte le analisi del caso Non ne vengo a capo, sinceramente non ne vengo a capo. Quindi devo dire che fra le due cose, diciamo, riuscire a mantenere un'economia di scala che ci permette di no? In Italia nel momento non sono molto sono molto molto difficili. Ti direi, mi chiederai o ti chiedo di chiedermi se sono Hong Kong, e ti dico sono Hong Kong perché comunque uno senti? Purtroppo va e viene la telefonata. Comunque abbiamo capito il tuo intervento, abbiamo capito perché ci interessava appunto sapere il discorso della trattoria. E ti ringrazio Claudio, grazie, a presto. Comunque ti volevo dire, ecco, che io sono qui a Hong Kong, se hai ancora un attimo, sì, di certo, tempo. Prego. E per vedere anche come sono i mercati qua in Oriente, per capire che cosa devo fare, perché in realtà qui l'economia non è così disperata come è da noi. I ristoranti hanno fatto degli aggiustamenti da un punto di vista del prezzo, da un punto di vista dell'offerta, però c'è molta, molta richiesta di qualità, quindi è tutto un po', diciamo, stiamo vivendo per me un momento di grande confusione. Bene. Dove in realtà bisogna decidere che cosa fare in breve tempo per poter portare a casa, diciamo, un risultato che sia soddisfacente per chi lavora e per chi invece usufruisce della ristorazione. Grazie Claudio Sadler, buon lavoro. Sentiamo Margherita da Udine, una radioascoltatrice. Buongiorno Margherita. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Permettendo che io sono una giornalista che si occupa anche di gastronomia, lancio una piccola riflessione. Voi avete affrontato il tema su crisi di modello della ristorazione o della gente che in crisi non va a mangiare fuori. Non è che forse il problema invece sta nelle guide, il fiorire di molte editorie, di guide che anche danno attribuzioni di merito in base a logiche commerciali più che a logiche di qualità, forse magari chi più addentro nel settore sa discernere qual è una guida che attribuisce stelle o quant'altro in base al merito, però forse invece la gente, diciamo, un po' più distratta confonde le cose, va incontro a delusioni e quindi forse magari si affida più al passaparola nella scelta di un ristorante. Non so, una piccola provocazione. Bene, grazie, anche questo è un sasso in piccionaia. Sentiamo Simone da Roma, buongiorno Simone. Buongiorno a lei, dottore. Prego. Allora, io volevo fare una piccola premessa, sono una persona che vive di stipendio, sono un impiegato, ma sono anche un cultore della buona cucina e questo mi spinge molto volentieri ad affrontare magari dei costi spesso proibitivi, no? Per una non casta. Ma quello che però purtroppo, forse perché appartengo a una piazza difficile che è quella di Roma, dove ci sono sicuramente degli ottimi ristoranti, però dove spesso ci si ritrova, come dicevo la sua collaboratrice, un filetto a 22 euro nel piatto che non merita assolutamente. Allora, perché devo continuare ad avere queste delusioni che mi spingono veramente a rifiutare poi di affrontare una ricerca e un investimento appunto sulla buona cucina? Qui purtroppo succede sempre più spesso quello di trovare una bottiglia di Chianti che trovo tranquillamente nel supermercato a 8-9 euro, di ritrovarmela a 20 euro. Bene. La stessa sul tavolo. Mi sembra che lei ponga... Ho un amico ristoratore, so benissimo quanto costa gestire un ristorante, ma spendere 60 euro spesso per una cucina mediocre sinceramente mi spinge lontano. Grazie, grazie. Sentiamo Daniele dalla provincia di Novara. Buongiorno Daniele, veloce. Sì, buongiorno. Io volevo dire due cose proprio perché ho un figlio che da qualche anno ha un ristorante che dall'anno scorso ha una stella Michelin. Dovrei dire innanzitutto che, tanto per riprendere anche un discorso che hanno già fatto in tanti, quella scellerata legge sull'etilometro sta penalizzando moltissimi ristoranti, soprattutto quelli che non si trovano nelle grandi città. Poi c'è da dire che indubbiamente il livello culturale della popolazione negli ultimi anni è sceso, per cui è più facile che una persona decida di spendere 300 euro per esibire un paio di scarpe con un marchio piuttosto che decidere di andare a gustare veramente una cena in un ristorante di un certo livello. Un altro problema che c'è, forse è il più pesante perché io lo vivo tramite l'attività di mio figlio, e il personale. Oggi i ragazzi non hanno più disponibilità a sacrificarsi, a lavorare per la soddisfazione di lavorare in un locale di un certo livello dove danno un servizio e non sono dei servi, ma si elevano nel dare il servizio in un ristorante di un certo livello e soprattutto non ne vogliono sapere assolutamente di lavorare al sabato. Buongiorno Franco. Buongiorno Davide, sono Franco Zambelli, il titolare della Locanda del Gusto, quindi sono un ristoratore. Volevo rispondere brevemente al signore che ha fatto un intervento prima, al medico. Oggi abbiamo un grande problema che è quello dei costi, perché la gente mediamente non può spendere più di tanto. Quindi mettere anche, aggiungere il costo di un nutrizionista per mettere le calorie, certo. Almeno per la mia tipologia, io che fuori ho scritto osteria con cucina e quindi da dire un input ben preciso, credo che sia un costo aggiuntivo che forse possiamo benissimo evitarci, a meno che qualcuno, per farsi pubblicità, qualche nutrizionista, bene, non offra questo servizio. Bene, lanciamo, caro Franco, lanciamo questo appello, magari vediamo se qualcuno risponde. Bene, continuiamo nella carrellata delle opinioni. Abbiamo con noi Piero Alciati, la famiglia Alciati è famosissima, specialmente nelle Langhe, diciamo che ha avuto un ristorante stellato e ne ha ancora ristoranti stellati la famiglia, ma diciamo che negli ultimi tempi Alciati ha diversificato non solo due ristoranti, diciamo, dalla famiglia, ma poi anche dei piccoli ristoranti a Italy, per esempio a Torino, ma anche credo in Giappone. Allora voglio chiedere a Piero, visto che ha queste due tipologie di ristorante, cosa prevede per il futuro? Buongiorno a tutti, ciao Davide. Il futuro lo speriamo sempre rosa. E quindi pensiamo che il momento sia generale, che la crisi, diciamo, un po' è globale e coinvolge tutti i settori, quindi anche la ristorazione. Nello specifico, fortunatamente, noi viviamo in un'isola un po' felice, le Langhe, quindi l'afflusso turistico compensa magari quello che può mancare nel quotidiano. Su invece la struttura di Italy e la ristorazione, quello è un modello di ristorazione completamente differente ed è uno spazio nuovo che probabilmente prima non c'era e che non risente assolutamente della crisi, anzi sia il negozio che i piccoli ristoranti di Italy hanno incrementi a doppia cifra già da 2 anni, quindi diciamo, è una fortuna ed è così. Tu la vedi come una diversificazione questo tipo di ristorazione o la vedi come la ristorazione del futuro? Io la vedo come un'altra ristorazione, non lo so se questo è il futuro, se lo è ben venga, certo è che la ristorazione classica o comunque l'alta ristorazione classica deve far fronte a costi e non ha i volumi sufficienti per diciamo facilmente superare periodi come questo. Bene, grazie a Piero Alciati. Abbiamo con noi Davide Scabin del Combal Zero di Rivoli, e a lui, che è uno molto schietto di solito, faccio una domanda secca. Le stelle sono in una crisi di modello? Ciao Davide, buongiorno a tutti. No, non sono una crisi di modello, sono un modello che deve apportare delle varianti. Perché? Perché c'è un'evoluzione in corso di tutto quello che è la ristorazione, automaticamente anche i giudizi o i metodi di giudizio devono riuscire ad adeguarsi. Per quello che ho sentito fino adesso sulla crisi della ristorazione o la crisi economica, siamo in un momento, posso usare un termine che magari non piace, ma siamo un po' decadenti. C'è le crisi di non saper più saper scegliere. E questo è quello che in qualche modo crea confusione e fa in modo che chi veramente fa la qualità a volte sia confuso con chi sa fare un grande marketing. Quindi il futuro come lo vedi? Il futuro lo vedo con una grossa spaccatura. I ristoranti di fascia alta e stellati dovranno sicuramente dare molta più garanzia che andando in queste case si fa un'esperienza vera e non soltanto sotto un punto di vista della materia prima, che logicamente dovrà essere sicuramente la migliore, ma facendo veramente di una differenza. Adesso arriviamo a un punto che non è più il discorso di dire la materia prima di qualità, DOP, non DOP, no, veramente in questi stellati ci dovrà essere la materia prima rara, in modo dogmatico, e in più dovrà essere un'esperienza, perché altrimenti si, si frequenterà un altro tipo di ristorazione che è più un mangiare bene, essere garantiti del rapporto qualità-prezzo, punto e basta. E quindi una spaccatura, fascia altissima e poi una fascia media che deve in qualche modo riassorbire tutto quello che è un po' il resto della ristorazione. Bene, ti ringrazio per la solita chiarezza, grazie Davide. Abbiamo anche con noi un altro chef stellato che è Andrea Berton di Trussardi a Milano. Ecco, Trussardi ha sia un ristorante stellato 2 stelle, ma anche, chiamiamolo così, un ristorante casual al pian terreno. Voglio chiedere a Andrea Berton se diciamo questa diversificazione sta portando dei risultati e sarà il futuro per molti ristoranti stellati. Buongiorno a tutti, ciao Davide. Questa diversificazione è nata fin dall'inizio con noi, quindi non è dovuta a questo momento, anche se comunque va tenuto in considerazione l'epoca che stiamo vivendo, per fidelizzare ancora di più il cliente per quanto ci riguarda, quindi è un modo di dare un'offerta ancora più ampia alla nostra clientela e proporre un'offerta e un prodotto sempre di alta qualità, però delle volte anche più semplice e più veloce per quelle che possono essere le esigenze del pubblico che ci frequenta. Quindi ritengo che sia molto importante comunque mantenere ben chiara l'idea della qualità, perché è quella che farà sempre la differenza, credo, anche alla lunga, sia nel preparare un piatto da ristorante stellato, quindi da un piatto pensato in un certo modo e un piatto, diciamo, che ha un'idea e un approccio diverso. Quindi chi va al ristorante stellato, diciamo, deve vivere un'emozione, secondo me, a 360 gradi, quindi dal cibo allo star bene a tavola, a un insieme di aspetti che creano questa situazione coinvolgente poi per chi lo frequenta e che giustifica poi anche un costo magari più alto. Però allo stesso tempo anche chi frequenta come da noi il caffè Trussardi, quindi con un'offerta molto più veloce, più light, con dei piatti anche molto più semplici, ha la possibilità di vivere due momenti diversi, quindi il motivo un po' per noi è stato questo. Di amplificare l'offerta, benissimo. Esatto, di amplificare l'offerta. Grazie Andrea Berton. Ora sentiamo Vladimiro da Padova, velocissimo Vladimiro. Grazie. Niente, io sto per andare al ristorante e vi dico che la crisi c'è per chi non sa lavorare. Ho dovuto prenotare per forza a mezzogiorno perché di sera dovevo prenotare in maggio. Senta, ma il ristorante che lei, dove lei sta andando, è uno stellato, un ristorante non stellato? No, non è stellato, non credo sia stellato, è un ristorante di paese che lavora con il pesce, lavora con altissima qualità. Bene. E i tempi sono lunghissimi. Bene. Di prenotazione. Grazie Vladimiro. Antonio Dattrani, velocissimo. Ciao Davide. Niente, io volevo dire, per quanto riguarda il discorso ristorante, qualità, qui al sud c'è un piccolo problema: la gente deve stare più attenta ai menù, non ha la capacità e la concentrazione di leggere attentamente i menù, perché oggi andare in un ristorante alto, di qualità alta, non significa pagare molto, perché se uno guarda il menù e sa scegliere, può tranquillamente fare una cena al giusto prezzo. Grazie Antonio. Molte volte... okay, grazie Antonio, sentiamo Luciano Sbraga, proprio finale, 30 secondi. Sbraga. Sbraga velocissimo, io non volevo dare adito ad equivoci, non dico che la qualità è in crisi, io ho posto un problema diverso, dico che c'è una qualità che costa molto per essere prodotta e quindi c'è questo squilibrio, perché se noi prendiamo i ristoranti di eccellenza, perché è di questo che dobbiamo parlare oggi, certo. Noi abbiamo che in 60 giorni l'anno si fa la produzione, uso la parola produzione così non per parlare di industria ovviamente, di circa il 70%, cioè quindi sì, è molto concentrata, mentre i costi sono distribuiti lungo tutto l'anno, quindi il problema non è di crisi della qualità, della ristorazione di eccellenza dal punto di vista della qualità, è di in qualche modo di uno squilibrio tra costi e ricavi. Sbraga, lei è stato chiarissimo, è stato chiarissimo, l'abbiamo capito benissimo, anche perché c'è un esempio drammatico di qualche mese fa di un ristoratore che appunto è arrivato a un gesto veramente inconsulto, proprio questo squilibrio tra i costi e quello che lui incassava. Grazie per mantenere appunto un certo livello, è una stella. Grazie a tutti di questa partecipazione. Buona giornata dal vostro gastronauta.